Radio 24 Reportage. Ungheria, ombre sul Danubio, di Cinzia Franceschini e Arcangelo Rociola. Cancellare il Trianon, gridano i Carpazi, a un gruppo molto conosciuto in Ungheria. Il testo inneggia la grande nazione magiara, quella precedente al trattato del Trianon. Correva l'anno 1920, l'impero austro-ungarico usciva sconfitto dal primo conflitto mondiale e il Trianon tolse all'Ungheria Transilvania, Slovacchia e Serbia, riducendola ai confini che conosciamo oggi. I Carpazia sono in musica allo specchio di un desiderio diffuso tra i magiari, quello di cancellare gli anni in cui il paese è stato un satellite dell'impero sovietico. Al di là degli eccessi nazionalistici, quello che gli ungheresi vogliono è tornare a essere politicamente indipendenti e di nuovo protagonisti della propria storia. Non il fanalino di coda dell'Unione Europea, ma appunto una grande Ungheria. Sì, da sciogliertem comunora, basso con Leo Corto Bessiani. Azt mondták, hogy Komló az nehéz hely, a Komló az... E a questa grande Ungheria che il premier Viktor Orbán fa spesso riferimento nei suoi discorsi. Orbán ha saputo catturare un sentimento diffuso nel paese e dalle parole è passato ai fatti. Ad aprile il suo governo ha approvato una nuova costituzione, una carta che Fidesz, il partito conservatore che alle elezioni del 2010 si è aggiudicato i 2/3 del Parlamento, ha costruito intorno al concetto di etnia magiara e alle radici cristiane del popolo ungherese. Penso si tratti di un buon cambiamento per il paese. Oggi c'è troppa libertà di costume. È giusto ricordare che il cristianesimo è la base di tutta la civiltà occidentale. Dobbiamo esserne fieri. Peter ha 23 anni e studia medicina. Il suo patriottismo si risveglia alla seconda bottiglia di Sofroni, una birra ungherese precisa, che sorseggia alle 11 del mattino. Poche ore prima ha dato l'ultimo esame del semestre ed ora è il momento di rilassarsi con gli amici in un parco sul lungo Danubio. Ma non tutti qui ne sanno di politica. Not too much. Penso che ora devo concentrarmi sugli studi. Non chiedetemi di politica, della Costituzione, di Orbán. So solo che dopo la laurea lascerò l'Ungheria. Ma a Budapest c'è chi un'opinione sui provvedimenti di Fidesz ce l'ha e come. Nel caos di una redazione a poche ore dalla chiusura del giornale incontriamo Desi Andras, caporedattore della Népszabadság, il quotidiano più diffuso nel paese. Credo che questa sia una cattiva costituzione che riporta il paese nel XIX secolo. Non ho nessun problema con la religione, però non condivido il riferimento al cristianesimo e molte altre cose, come il nome che viene dato al paese, da Repubblica a Nazione Magiara. Ciò può essere interpretato come un riferimento alla Grande Ungheria ed è un richiamo al Trattato del Trianon. Dopo la Prima Guerra Mondiale l'Ungheria ha perso 2/3 del proprio territorio e questa è una ferita tuttora aperta. La pensa così anche Peter Magyar, ex collaboratore dell'ANSA in Ungheria. Parla di politica seduto al tavolo di uno dei locali più frequentati dai giovani ungheresi, il Simpla Kert. L'arredamento in stile vintage, con vecchie Trabant che diventano divani, botti di legno e lampade dalla luce soffusa. Magyar ha vissuto il comunismo, sa cosa vuol dire vivere in un regime totalitario e non nasconde le sue preoccupazioni sulla strada intrapresa dal governo. Secondo me quello che avviene in Ungheria adesso è una svolta autoritaria. Dopo 20 anni di democrazia, un partito l'anno scorso ha vinto le elezioni con 2/3 di maggioranza in Parlamento. Con una maggioranza di 2/3 si ha la possibilità di cambiare Costituzione. Orbán lo fa in vista di trasformare Ungheria. La nuova Costituzione entrerà in vigore il 1 gennaio 2012, ma Orbán sta già ridisegnando il volto del paese con alcune leggi che hanno fatto storcere il naso all'Unione, prima tra tutte quella sulla stampa. Magyar földre, magyar anyától, én szétszakadva, de magamtól minden, mert a tolvaj szíve kegyelmet nem ismer. És hogyha Isten ver, azt nem bottalám, nem lettem királyfi, nem is kell királylány. Il 30 giugno scorso l'Ungheria ha terminato il semestre di presidenza dell'Unione Europea. Il giorno dopo è entrata ufficialmente in vigore la legge sui media, varata dal governo nel dicembre 2010, esattamente 6 mesi dopo. Per molti si tratta di una scelta politica fatta per evitare richiami ufficiali, ma perché la norma preoccupa così tanto? Bene, questa legge sui media ha portato un pericolo che i contenuti pubblicati sulla stampa e sui mezzi elettronici possono essere controllati e eventualmente sanzionati. Fino a 89.000 euro di multa per le testate che pubblicano articoli politicamente non equilibrati o che offendono la sensibilità nazionale. A giudicarli sarà un'autorità nominata dal governo. Il timore è che ciò induca i giornali ad autocensurarsi. Se il governo che rappresenta la maggioranza attualmente si sente offeso da qualche critica, può fare causa e l'autorità nominato dal governo può accettare questa denuncia. I'm in this job for 21. Faccio giornalista da 21 anni e nel corso della mia carriera non ho mai dovuto fare autocensura. Lo stesso vale per il mio giornale. Tutte le notizie verranno comunque pubblicate. Da aprile le notizie per le radio e le televisioni sono fornite da un'unica agenzia statale, la MTI, che ha sostituito tutte le agenzie private. Le opposizioni accusano il governo di voler mettere un ulteriore bavaglio all'informazione, ma non tutti i giornalisti pensano che la loro professione sia a rischio. Ci sono anche voci fuori dal coro, come quella di Richard Hirschler, ex caporedattore del settimanale HVG, ex perché, come racconta, è stato allontanato dalla sua redazione proprio per le sue posizioni filogovernative. Ho pubblicato un articolo scritto dal vice caporedattore di un giornale di destra. Non potete immaginare cosa è successo dopo. Hanno detto che ero un fascista. Il mio giornale ha deciso di prendere le distanze da me perché le mie scelte non rispecchiavano più la linea editoriale, la filosofia di HVG. Hirschler ha vissuto negli Stati Uniti e conosce bene la cultura liberale, ma non vede alcun problema nel progetto di Orban, che ai suoi occhi rimane l'uomo nuovo della politica ungherese. E la paura diffusa tra i liberali che Orban stia attuando un progetto autoritario? Ah, that's bullshit. Come on. Sono tutte stupidaggini. Si sta diffondendo una visione distorta dei fatti. Sembra che in Ungheria i fascisti marcino per le strade, che i rumeni e gli ebrei siano perseguitati. Ho anch'io le mie perplessità riguardo l'operato del governo e la nuova Costituzione, ma negli anni scorsi i socialisti hanno portato il paese in una situazione disperata. Orban ha semplicemente fatto ciò che doveva fare. Non vedo nessun problema. That Orban did what he had to do. Difficile negare che i media, specie quelli oltre confine, hanno a volte dato un'immagine dell'Ungheria più da 1984 di Orwell che reale, ma altrettanto difficile rimanere indifferenti davanti all'insorgere dei nuovi nazionalismi. Quell'ungherese è solo uno tra i tanti in Europa. A Budapest intanto le acque del Danubio continuano a scorrere calme, nessuna increspatura, non ora. Le nuvole nere che alcuni vedono all'orizzonte, per adesso, rimangono solo una minaccia. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.